Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Oggi è stato presentato, sono state presentate a Bruxelles le previsioni economiche d'inverno, come si chiamano, per individuare il periodo a cui si riferiscono. In realtà d'inverno può anche diventare quasi un aggettivo, invernali, visto che c'è un ribasso di tutte le stime, quindi un raffreddamento di tutte le stime. L'Italia viene rivisto la sua crescita economica dal 0,6 stimato, 0,4 stimato a novembre, allo 0,3%. Resta la nostra economia quella che cresce di meno in tutta l'Unione Europea, perché Germania e Francia faranno 1,1 quest'anno, Malta e Romania più 4, più 3,8, appunto l'ultima è l'Italia. E poi l'Unione Europea dice attenzione, insomma, dà anche dei commenti alla situazione politica, ne parleremo in apertura. Dopodiché, e ci sono state anche dichiarazioni oggi del ministro Gualtieri, Moody's però nel frattempo, l'agenzia di una delle agenzie più importanti di rating al mondo, ha detto non prevediamo un taglio delle stime sul voto italiano e quindi sulla affidabilità del debito italiano. Poi parleremo invece, continueremo il nostro viaggio nei settori alle prese con il coronavirus, lo sta facendo la nostra Livia Zancaner, torneremo sul sistema moda da un lato, ma anche sulla parte meccanica, della meccanica industriale. E ancora, per quello che riguarda gli approfondimenti di questa puntata, il settore aereo, una doppia notizia. Da un lato, come oggi riporta in maniera lampante il Sole 24 Ore, ci sono casi di compagnie aeree che riescono ad andare bene. C'è il caso di una compagnia greca, si chiama Aegean, che insomma festeggia addirittura un maxi ordine da 6 miliardi per 58 Airbus. Questo nel giorno in cui, da un lato, abbiamo scoperto che Ryanair ha fatto un bluff, cioè chi dice per motivi di marketing. Oggi aveva la conferenza stampa, doveva presentare anche le nuove rotte, sappiamo che O'Leary è uno che non è nuovo a operazioni molto spregiudicate di marketing. Ieri aveva fatto uscire la notizia che sarebbe stato interessata Ryanair a rilevare Air Italy, oggi ha smentito tutto, e lo ha fatto il commercial officer di Ryanair, O'Brien. Nessun interesse per Air Italy, ma invece ha lanciato speciali tariffe per i voli cancellati, soprattutto per Cagliari, Catania, Lamezia, Milano, Malpensa, Olbia, ovviamente anche cioè le rotte di Air Italy. A me personalmente è sembrata un'operazione di marketing, cioè far parlare di sé perché devi annunciare nuove rotte. Ma detto questo, il tema resta, perché continuiamo a seguire intanto perché ci sono quasi 1500 dipendenti tra Olbia e Milano su Air Italy, e poi perché vorrei ricordare a tutti quelli che mi dicono ma chi se ne frega di Air Italy, che da questo punto di vista c'è anche il tema della continuità territoriale, cioè la Sardegna ha speciali tariffe per i residenti perché devono garantire la qualità territoriale. Perché ne parliamo? Perché non si sa ancora come si chiuderà questa vicenda. Infine, un ultimo tema che riguarda anche qui il trasporto, ma il trasporto, l'autotrasporto soprattutto, c'è di nuovo tensione per quello che riguarda il Brennero, e quindi il transito dei TIR Euro 0 fino a Euro 3 tra Brennero e Affi, quindi nella parte diciamo della 22 che va dal confine di Stato fino ad Affi. Perché lo dico? Perché il governatore altoatesino Arno Kompascher ha rilanciato il numero chiuso per i mezzi pesanti di giorno e di notte, e il divieto di transito per i TIR Euro 0 fino a Euro 3, e tutto un insieme di misure. I TIR potranno circolare di notte secondo la proposta, ma solo se a livello di Euro 6, e poi hanno chiesto al ministro De Micheli di chiarire il futuro dell'A22, e da questo punto di vista devo dire onestamente che è un problema che si ripropone ciclicamente. C'è un accordo tra l'altro che scade, se ho ben visto, a metà di quest'anno, e quindi da lì poi il 30 giugno 2020 l'accordo di cooperazione, va sottoscritto il nuovo accordo di cooperazione entro il 30 giugno del 2020. E poi come sempre la borsa, allora, per quello che riguarda Milano, invariata, negativa a Parigi di 0,5%, Francoforte dello 0,30%, Londra meno 1,30%, Dow Jones meno 0,40%. Tra i titoli molto bene Nexi più 4%, Telecom Italia più 3,70%, ST Microelectronics più 2,60%, UBI più 2%, Banco più 1,60% come banca generale, Juventus era più 1,30%, Amplifon più 1%. Fronte opposto Pirelli meno 2,30%, Saipem meno 1,60% come Moncler, l'1,5% lo perde Buzzi Unicem, ma anche Salvatore Ferragamo, e Fiat Chrysler l'1,20% il calo di Tenaris, Campari l'1,1% quello di Eni e di Leonardo. Euro sempre debole sul dollaro a 1,08 349 238 6666, scusatemi, il numero per SMS e WhatsApp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Allora, per quello che riguarda le altre notizie in breve, Airbus chiude il 2019 con un rosso pesante, ma in realtà è un rosso da 1.360 milioni, in realtà pesa soprattutto la multa da 3.600 milioni di euro a causa dello scandalo per corruzione e costi di sviluppo per l'aereo aggiuntivi, per l'aereo A400M. Gli ordini comunque sono aumentati a 768 velivoli contro i 747 del 2018. Chiude in rosso anche, ma ci spostiamo in Giappone, Nissan. Pesa lo scandalo, secondo le agenzie, di Carlos Ghosn. E comunque l'ultimo trimestre dell'anno ha registrato Nissan una perdita netta di 217 milioni di euro contro un utile invece dell'ultimo trimestre del 2018. Multe molto contenute, ma interessante il tema, perché Mosca ha inflitto attraverso il tribunale distrettuale di Tagansky a Twitter una multa da 58.000 euro, che praticamente niente, briciole, però ne ha anche data un'altra a Facebook. Non capisco perché le agenzie continuano a dire super multa 58.000 euro. Per Facebook e Twitter sono niente. In ambedue i casi Peres si è rifiutata di porre in territorio russo i server con i dati dei cittadini russi. Sempre in tema di telecomunicazioni, oggi la Francia ha chiarito una volta per tutte che, contrariamente alle pressioni che sono arrivate in maniera molto forte e insistita dagli Stati Uniti, non escluderà Huawei dal 5G. Conosco l'obiezione di alcuni che mi hanno scritto in questi giorni: ci occupiamo tanto di Huawei, del rischio, perché è un rischio evidenziato anche dai nostri servizi di sicurezza, che possa essere, diciamo, una testa di ponte per attività, la dico insomma, in maniera molto piatta, di spionaggio cinese. È un rischio che va assolutamente valutato. Attenzione, perché proprio in questi giorni commentiamo un bellissimo piano di spionaggio da parte americana verso tutti i paesi anche alleati. Per cui lo spionaggio, diciamo, non è monopolio solo cinese, però la Francia ha preso una direzione molto chiara su questo. Coronavirus, l'aggiornamento quotidiano. Ora, le vendite di auto in Cina a gennaio, non poteva essere altrimenti, visto che ci sono decine di milioni, 80 milioni almeno bloccati in casa, ma non solo, è tutto, ci raccontava ieri Saro Capozzoli, è tutta l'attività che è bloccata, ristoranti vuoti o chiusi, cibo in casa e quant'altro. Insomma, le immatricolazioni di auto hanno fatto meno 18% con il calo di immatricolazioni più ampio dal gennaio 2012. Per quello che riguarda invece le notizie più o meno riguardanti il coronavirus, Dunque, l'ambasciata cinese, che quando ha accompagnato i 20 turisti dimessi dallo Spallanzani, ha detto nella comunità cinese, l'ha detto il dottor Zhang, viene così riportato, nella comunità cinese si sta diffondendo il panico non per l'epidemia di coronavirus ma per la sicurezza. Ci sono state aggressioni verso cinesi in Italia, non turisti ma comunità cinese. Vorrei invitare gli amici italiani a fare attenzione alla sicurezza dei nostri connazionali che vivono e lavorano in Italia, di evitare pregiudizi, distinzioni, aggressioni, insulti e minacce non sono tollerabili. Devo dire che ha in tutto e per tutto ragione l'ambasciata cinese, anche perché manca solo di iniziare a fare razzismo e terrorismo sul nulla in questo caso. Per quello che riguarda l'impatto economico invece, la Commissione europea ha detto, pur lasciando le stime invariate, il coronavirus è un nuovo rischio, ma fonti del Ministero dell'Economia e Finanze stimano che il fattore di rischio, cioè l'impatto che avrà il coronavirus sull'economia mondiale e quindi anche sull'economia italiana, sarà almeno di 2-3 mesi, senza però poterne quantificare ancora gli effetti. Le buone notizie arrivano invece dallo spread, perché è sceso ancora ai minimi dal maggio 2018 a 126,5 punti. È tornato negativo anche il BTP a 3 anni, cioè per prestare soldi all'Italia e riaverli dopo 3 anni si accetta di avere un rendimento negativo, di averne meno quando diciamo finisce il prestito. E il Tesoro ha collocato infatti i BTP a 3 anni per 2,25 miliardi, a 7 anni per 2 miliardi e 75. Il rendimento del BTP a 3 anni è sceso a meno 0,1% contro un più 0,2% di gennaio. Richieste buone, una volta e mezzo l'offerta. E invece i BTP a 7 anni ha dimezzato il rendimento dallo 0,94% allo 0,48%. Quindi buone notizie per gli interessi che l'Italia paga sul debito. Visto che parlavo di parte di coronavirus, vorrei far ascoltare alcuni passaggi o alcuni elementi che ha toccato il presidente della Corte dei Conti Angelo Buscema nella sua relazione sull'attività della Corte dei Conti nel 2019. Corte dei Conti che noi citiamo spesso, ahimè, nella poco invidiabile classifica, perché è spesso la Corte dei Conti a evidenziare il danno erariale, perché nella sua missione il danno ai soldi pubblici. Allora, c'è stato un richiamo forte a rimuovere gli ostacoli agli investimenti pubblici, e anche qui non posso che non essere d'accordo. Un'allerta per l'effetto sui conti pubblici del coronavirus e un'attenzione ai margini stretti per il calo del debito. Questo alla presenza, tra gli altri, anche del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte cariche istituzionali durante appunto la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2020 della Corte dei Conti. Sentiamo un passaggio di Buscema. Le previsioni sulla crescita sono in larga misura concordi nel ritenere che anche il 2020 resterà lontano dai ritmi di sviluppo pre-crisi, mentre l'inizio di una ripresa viene collocato e viene successivo. Su questo quadro, tutt'altro che confortanti, sono innestati impulsi nuovi e in parte imprevisti, che sembrano riportare verso il basso le prospettive economiche, dalle tensioni geopolitiche agli effetti difficili da stimare del coronavirus sull'economia cinese e di riflesso su tutte le altre aree economiche mondiali. Una stima difficile, perché la formidabile crescita dimensionale della Cina negli ultimi 15 anni prefigura ricadute negative di portata sconosciuta sugli altri sistemi economici. Da ciò deriva la necessità, anche per il nostro Paese, di monitorare e valutare con grande attenzione l'evoluzione del quadro di finanza pubblica al fine di prevenire il rischio di deviazione dal percorso di risanamento di bilancio, a sua volta elemento indispensabile del rientro del debito pubblico verso condizioni di minore vulnerabilità finanziaria. In condizioni di crescita economica bassa, di inflazione ancora al di sotto del target 2%, da anni perseguito soprattutto dalla Banca Centrale Europea, i margini per la riduzione del rapporto debito-PIL si fanno molto stretti. E ciò a sua volta rafforza l'esigenza di politica di bilancio caratterizzata da un alto grado di selettività, imposta anche dalle urgenze, ben presenti nella realtà italiana, che provengono dall'invecchiamento della popolazione e dalla situazione di grave ritardo del sistema infrastrutturale pubblico. urgenze che spingono verso una più efficace azione di razionalizzazione della spesa pubblica a tutti i livelli di governo e verso una revisione degli strumenti e delle procedure in grado di rimuovere i vincoli che tuttora rallentano l'attuazione dei programmi di investimento pubblico. E poi sempre Buscema sulle autostrade ha detto: vanno accelerate le procedure per l'affidamento delle nuove concessioni da svolgersi prima della scadenza delle vecchie convenzioni per la tutela dell'interesse generale, per scongiurare la stasi degli investimenti. Ancora, è urgente un ingresso di nuove generazioni in tutte le amministrazioni pubbliche, non solo per aumentare l'età media, ormai ben oltre 50 anni, ma anche per i vuoti nei ruoli di tanti organi essenziali. E poi per chiaramente creare e incentivare un rinnovamento nella pubblica amministrazione, un appello che Buscema ha rivolto direttamente al Presidente della Repubblica Mattarella. L'ingresso delle nuove generazioni in tutte le pubbliche amministrazioni appare urgente. Una fase di complessivo rinnovamento non è più rinviabile, non solo per l'aumentare dell'età media, ormai per oltre 50 anni, dei pubblici dipendenti, non solo per i vuoti nei ruoli di tanti organi essenziali, ma perché dare lavoro a tanti giovani è ciò che occorre al Paese, nel momento in cui ci si muove nuovamente sul limite di una nuova frenata dell'economia. Il dato della crescita economica del quarto trimestre 2019 non è positivo, con il rischio di ulteriore rinvio della ripresa. A fronte di ciò è necessario dare più spinta agli investimenti pubblici, che già nel corso del 2019 avevano invertito la curva discendente, mostrando una buona dinamicità, soprattutto a livello locale. Solo un'accelerazione dell'impiego delle risorse già stanziate potrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi di crescita precedentemente fissati. La fase di operazione del documento di economia e finanza 2020 diventa occasione decisiva, un banco di prova per tutti. Sarà necessario definire un programma in grado di invertire la tendenza insita nelle previsioni prevalenti per il nostro Paese. Dunque, ancora due notizie in breve che riguardano, sì, giustamente mi fate notare, è stata assunta la ricercatrice dallo Spallanzani, che ha isolato assieme alle sue colleghe il coronavirus, Francesca Colavita. Ed è una buona notizia, volevo darla domani nella classifica, ma sì, però posso anche condividere, se vogliamo metterci un po' di cinismo, alla battuta di Enrico Mentana: ci è voluta un'emergenza planetaria per far assumere una precaria. Questa è un po' l'amarezza, comunque almeno è stata assunta, visto che era a tempo determinato. No, due notizie per chiudere di carattere a cavallo tra economia e cronaca giudiziaria, perché nell'ambito dell'inchiesta sul caso Petrobras, il GUP di Milano Valerio Natale ha rinviato a giudizio per corruzione internazionale i fratelli Paolo e Gianfelice Rocca e anche San Faustin, la holding del gruppo Techint, e Roberto Bonatti. Processo fissato per il 14 maggio prossimo davanti alla settima sezione penale del Tribunale. E sempre sul fronte giudiziario, invece, condannati in appello, quindi in secondo grado a Firenze, a un anno e un mese di reclusione, l'ex presidente di Banca Etruria Giuseppe Fornasari e l'ex direttore generale Luca Bronchi, appunto nel processo di secondo grado, che li vedeva imputati in questo caso dell'accusa di ostacolo alla vigilanza. Tra l'altro, Fornasari e Bronchi sono stati condannati in solido a risarcire la Banca d'Italia, parte civile, nel procedimento, una provvisionale stabilita da 327.000 euro. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Adesso andiamo su meteo, pubblicità, poi iniziamo a affrontare il tema delle previsioni economiche diffuse oggi da Bruxelles, che chiaramente hanno toccato anche l'impatto del coronavirus. Focus Economia. minuti. Dunque, previsioni d'inverno o l'inverno delle previsioni, potremmo dire, giocando con i termini, perché sono state diffuse da Bruxelles oggi tutte le previsioni economiche sui paesi europei e purtroppo per l'Italia c'è una revisione a ribasso, raffredda quindi l'economia italiana, crescerà solo leggermente, cioè uno 0,3%, anche a causa di un effetto negativo di trascinamento. 2021 più 0,6, ma insomma 2021 secondo me è completamente fuori dall'orizzonte. Faccio notare che a novembre la Commissione Europea prevedeva uno 0,4, quindi non è una revisione a ribasso drammatica. Il problema è che 0,4, 0,3 sempre quello sono, e cioè crescita debolissima, se non insomma, crescita solo nominale. I rischi a ribasso, continua a Bruxelles, sono pronunciati. Nel diffondere le previsioni, Francia e Germania sono penultime, l'ultima è l'Italia. Francia e Germania sono penultime con una crescita dell'1,1%, però vanno benissimo Malta e Romania, ma con tutto il rispetto non è da lì che può arrivare la, diciamo, la grande locomotiva europea. Con massimo rispetto per la Romania e per Malta, non per il governo maltese, ma per Malta come paese, sì. Dicevamo, continua la Commissione Europea, la stabilizzazione provvisoria della produzione manifatturiera associata all'inversione del ciclo delle scorte, traduco, assieme alla ridotta incertezza politica domestica e condizioni favorevoli del credito, dovrebbero essere fattori che nel breve termine potrebbero dare un po' di sostegno alla domanda interna, ai consumi. I consumi privati sono spinti dal nuovo reddito minimo e dovrebbero sostenere la crescita nel periodo della previsione. E poi invece il problema sono gli investimenti delle imprese, che rallenteranno nel 2020, mentre dovrebbero aumentare gli investimenti pubblici, e se questo avverrà stabilizzerà la crescita aggregata degli investimenti. Sentiamo il commissario europeo agli affari economico monetari Paolo Gentiloni. Quello che registriamo per quanto riguarda l'Italia è certamente, nel quadro di un rallentamento generale della crescita economica nell'eurozona, certamente il rallentamento è più accentuato in Italia, nonostante il dato finale del 2019 sia di uno 0,1 più favorevole di quelle che erano le nostre previsioni, ma comunque stiamo parlando di un rallentamento che in Italia è più accentuato, come altri di alcuni fattori esterni che investono in particolare l'industria e il settore delle esportazioni, ma altrettanto certamente ci sarà bisogno di lavorare molto nei prossimi mesi. Sono convinto che il governo instaurerà un dialogo con la Commissione perché questo lavoro vada nella buona direzione. E quindi l'Italia dovrà lavorare molto nei prossimi mesi. La sfida è ridurre il debito, ha continuato Gentiloni, con una politica espansiva, cioè con una politica che non vada a tagliare o a aumentare le tasse o a tagliare, ma riesca a far crescere il PIL e quindi portare a una riduzione non del debito a livello nominale, ma del rapporto debito-PIL, perché cresce il denominatore, cresce il PIL, non solo perché riduci il debito. Credo che il governo italiano sia consapevole della necessità di tenere gradualmente il debito in un percorso di riduzione, e la scommessa è quella di riuscire a farlo conservando una politica espansiva, non perdendo l'occasione degli investimenti collegati soprattutto alla transizione ecologica. E io mi auguro che il contesto europeo possa favorire un mix di politiche di questo genere. Allora, siamo in collegamento da Bruxelles con Daniel Gross, che è direttore del Center European Policy Studies. Buonasera, Gross. Buonasera a lei. Ecco, se riusciamo a alzare un attimo il livello del volume di Gross. Senta, Gross, la domanda non è speciosa. È più preoccupato perché l'Italia ha una crescita che è stata ulteriormente ridotta, più 0,3%, o perché gli ultimi tre paesi, quanto a crescita, sono Italia più 0,3 e poi Francia e Germania più 1,1? Ma la novità è senz'altro piuttosto che Germania e Francia si stanno indebolendo, non tanto che l'Italia continui quello che ha fatto prima, cioè lo 0,. Infatti per l'Italia il peggioramento è minore. la grande sorpresa è che Germania e Francia non riescono a mantenere la crescita malgrado condizioni abbastanza favorevoli in tutto sommato. E questo, vedi che la domanda non era specifica, lei dice dallo 0,4 allo 0,3 tanto poco crescevate e poco continuerete a crescere. Problema che, se ho ben capito la sua analisi, le tre principali economie dell'area euro e dell'Unione Europea sono agli ultimi tre posti. Appunto, sta emergendo sempre di più che la Germania ha veramente un problema strutturale col settore automobilistico, che non va male, che non riesce veramente a agganciare il cambiamento verso le macchine elettriche. E per la Francia il manufatturiero non è mai stato così importante, ma lì neanche i servizi sembrano andare benissimo. Mm. Per cui se abbiamo tutte e tre le maggiori economie in stallo, la cosa si fa difficile per la zona euro. Lei prevede previsioni ancora più a ribasso per effetto del coronavirus? Il coronavirus dovrà essere di breve durata. Ce lo auguriamo tutti. Si potranno avere 2-3 trimestri con la crescita minore, ma poi ci dovrebbe essere un rimbalzo. Un rimbalzo. Ecco, da questo punto di vista, allora, lasciando stare il coronavirus per un secondo, voglio cercare di vederla in positivo, anche se è un po' difficile stavolta. Ma magari non è che proprio il fatto che le revisioni a ribasso più forti siano arrivate su Francia e su Germania, e che comunque Francia, Germania e Italia sono i tre fanalini di coda della crescita dell'Unione Europea, potrà portare a una, diciamo così, revisione o maggiore flessibilità negli investimenti. Non voglio che l'Italia spenda di più nella spesa pubblica, nei costi della pubblica amministrazione, nell'approvvigionamento di beni e servizi. Però mi piacerebbe vedere in Europa la cosiddetta golden rule, cioè la capacità di scorporare dal calcolo del deficit gli investimenti in infrastrutture, non solo quelli green a cui faceva riferimento Gentiloni. Secondo lei potrebbe esserci una revisione, magari cogliendo la palla al balzo del coronavirus, ma insomma a fronte di un rallentamento così marcato? Politicamente senz'altro aiuta chi vuole vedere la golden rule. Ma non riesco a vedere in che modo, per esempio per la Germania, si possa combattere il fatto che tutto un settore molto importante sia in affanno con investimenti pubblici. Questo è il grande problema dell'Europa. Lì c'è un cambiamento, qui c'è un cambiamento tecnologico che sta accelerando e l'Europa non sta al passo. Però è vero che non è che l'investimento pubblico potrebbe controbilanciare la frenata che sta facendo l'automotive in Germania, però potrebbe controbilanciare l'andamento del PIL complessivo, cioè fa degli investimenti, sicuramente dal settore auto non arriveranno grandi apporti alla crescita economica, ma magari li ha in altro, da altri campi, no? Ma il problema è che in Germania il governo non riesce a spendere di più. Ha dei progetti per costruire strade, porti e altre cose, ma non trova nessuno che glielo fa fare. E poi c'è una resistenza pubblica molto importante per quasi tutti i progetti concreti. Per cui in teoria sì, più infrastrutture sarebbero utili. In pratica si rivela che non è così facile farlo. Parlo in questo caso naturalmente per la Germania. Per l'Italia è diverso. Lì ci sarebbe spazio per fare investimenti utili, ma per il momento sembra che l'amministrazione pubblica italiana preferisca sempre la spesa corrente a quella in capitale. Sì, e questa è una cosa che abbiamo criticato moltissimo, anche perché poi c'è tutta la parte burocratica, i 7 anni per far partire i lavori da quando vinci la gara. Insomma, io dico una cosa, il ponte di Genova, oggi è stato posato un pilastro importantissimo, se, come sembra, verrà fatto il ponte, il nuovo ponte che prenderà il posto del ponte Morandi, sarà pronto per la prossima estate. Ora, quella è il metodo, cioè c'è un commissario straordinario. Io non voglio commissariare tutte le opere infrastrutturali in Italia, ma alcune sì, non solo i giochi olimpici di Cortina, alcune sì, perché tanto abbiamo capito che solo quando c'è un commissario le cose si riescono a fare velocemente e con tempi, diciamo, europei e non tempi italiani. E Gross, visto che lei sta facendo un'analisi però delle tre principali economie europee, qual è il problema francese? Ma il problema francese non si capisce bene, perché il manufatturiero francese è fatto essenzialmente di grandi imprese in settori di alta tecnologia che per il momento vanno abbastanza bene. Non si sa bene se sia un effetto un po' ritardato degli scioperi di questo inverno o ci sia anche un problema fondamentale nel settore dei servizi. Sulla Francia io manterrei un giudizio più positivo, ma rimaniamo da vedere che cosa succede nei prossimi mesi. Mi chiedono molti ascoltatori, ma perché la Germania, un conto è cambiare, giustamente, e c'è stata una grossa botta sulle motorizzazioni diesel, lo abbiamo raccontato in questi giorni, anche in questi giorni, ma perché è così lenta la transizione? Voglio dire, è ovvio che il settore automotive non ha le dimensioni dei grandi gruppi tedeschi, per carità, però ormai è un anno che continuiamo a dire che la Germania sta rallentando. Dov'è che si è inceppato e più vischioso il passaggio nella transizione? Ma perché c'è un enorme capitale umano investito nei motori a combustione. Ci sono migliaia di ingegneri operai specializzati che sono fieri di quello che possono fare, quello che hanno imparato, e non riescono a vedere che praticamente da un momento all'altro tutto quel loro sapere non vale più niente, anzi diventa un ostacolo alla crescita, e queste resistenze sono enormi. Quindi c'è una resistenza anche interna, diciamo, al corpo sociale, in questo caso anche ai corpi tecnici, agli operai, ai tecnici specializzati nel modello tedesco. Secondo lei, per concludere, Grosse, invece in Germania è in atto non un piano di investimenti, perché ci ha spiegato anche le resistenze dell'opinione pubblica che vi sono, ma una rivisitazione del modello di sviluppo tedesco che è stato legato negli ultimi 10 anni, sostanzialmente anche 12-13, tutto all'export, fortemente legato con la presenza in Cina e nell'Asia. Secondo lei c'è una rivisitazione oppure no? Ma per il momento non c'è nessuna pressione a cambiamento, diciamo pressione dal basso, perché c'è ancora pieno impiego. La gente è ancora soddisfatta del suo tenore di vita, e solamente sono le previsioni di crescita che si abbassano, e quello non si vede nella vita di tutti i giorni. Tutti i giorni, certo. Per cui questa pressione a dire dovete cambiare modello, non più solo legato all'export, poi nella vita di tutti i giorni, nella quotidianità, non la vedi, stanti i tassi di disoccupazione. Che cosa dovrebbe fare la von der Leyen e Gentiloni? Perché insomma esiste anche Bruxelles, non è che noi parliamo di singoli paesi, ma insistere, premere di più, far accelerare il piano green in modo da introdurre la golden rule, cioè lo scorporo degli investimenti, di parte degli investimenti dal deficit, introdurla di fatto con la scusa del piano green? Ma sulla golden rule penso che molti economisti sarebbero d'accordo se fosse chiaro che in termini di investimento netto, non lordo. E quello fa una differenza enorme, perché per l'Italia, come si sa, l'investimento netto pubblico è negativo in questo momento. Per cui una golden rule in questi termini sarebbe molto utile anche per l'Italia, per spronarla a portare gli investimenti in attivo. Ma lei vede questa possibilità o no, anche attraverso, non dico la scusa, ma l'occasione del piano green che la von der Leyen ha annunciato? Ma io temo di no, di nuovo, perché la Commissione ha messo l'accento sull'ammontare della spesa che vuole mobilitare per il Green Deal. Questo secondo me è l'approccio sbagliato, perché si dovrebbe premere piuttosto all'introduzione delle macchine elettriche prima, a mettere regole più stringenti per le emissioni nel settore dell'industria e dell'elettricità. Per cui la Commissione sembra spendere il suo capitale politico su un fronte che secondo me non è molto utile. Chiarissimo il suo ragionamento. Grazie anche a Daniel Gross, appunto direttore del Central European Policy Studies di Bruxelles. Andiamo sul traffico. Focus Economia. E noi restiamo in tema di politiche per contrastare questa crescita debole, debolissima, stimata anche oggi dalla Commissione europea riguardo all'Italia, perché oggi è intervenuto anche il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, che continua a prevedere a gennaio un rimbalzo nella produzione industriale del PIL. Io me lo auguro, però faccio notare al Ministro che un rimbalzo non è una crescita, oltre che esserci il famoso rimbalzo del gatto morto, come si dice in America, in inglese, quando, per dire quando rimbalzi solo come effetto così, casuale. Dice però a gennaio rimbalzo della produzione PIL, sull'IVA vi saranno possibili solo piccole rimodulazioni e per tagliare l'IRPEF non faremo cassa con l'IVA. Dipenderà comunque anche dal quadro economico. Facciamo così, ascoltiamo Gualtieri su questo, perché io capisco tutto, però se non si farà cassa sull'IVA per tagliare l'IRPEF, io vorrei capire dal ministro dov'è che andiamo a prendere le risorse per tagliare l'IRPEF, perché faccio notare che anche sul 2021 abbiamo le clausole di salvaguardia. Comunque sentiamo Gualtieri dopo il GR24, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi se riusciamo a fare tutti e due, sia il Brennero, le nuove tensioni sull'autotrasporto a Brennero, che la vicenda Air Italy. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dicevamo delle dichiarazioni del ministro Gualtieri di oggi, perché si discute già di come farà o potrà fare il governo a ridurre l'IRPEF senza aumentare l'IVA. Adesso è ancora presto per parlarne, ci sono varie ipotesi. Sappiamo che Gualtieri a suo tempo non era contrario all'aumento dell'IVA in alcuni settori, oggi ha detto sull'IVA ci può essere solo qualche rimodulazione in qualche settore, ma non è la nostra intenzione fare cassa con l'IVA per il taglio IPEF, che dipenderà comunque anche dal quadro economico. Quindi diciamo si tiene molti molti margini. Sentiamo Gualtieri sia sul taglio dell'IPEF che sul cuneo fiscale. Stiamo lavorando a una riforma fiscale che però è concentrata sull'IRPEF, quindi non pensiamo di aumentare l'IVA. Ci possono essere qualche rimodulazione su alcuni aspetti, ma io non è nostra intenzione fare cassa dall'IVA, diciamo così. Non amo chi fa gli annunci costantemente prima di aver definito delle misure. Una riforma fiscale è un esercizio estremamente complesso, quindi noi lo facciamo con grande impegno, stiamo lavorando intensamente, ma è ancora prematuro dare indicazioni su che tipo di riforma sarà varata. Quello che è sicuro è che noi facciamo una riforma per ridurre la pressione fiscale. E noi pur in una manovra molto difficile come quella che doveva appunto trovare 23 miliardi per evitare l'aumento dell'IVA, siamo riusciti a ridurre le tasse a 16 milioni di persone. 11, quelli che prendono già gli 80 euro, avranno un piccolo beneficio aggiuntivo, arriveranno a 100 euro, ma 4 milioni e 200 mila cittadini, lavoratori che non prendevano nessun beneficio, avranno quasi tutti 100 se non 80 euro netti al mese. Quindi una prima significativa tranche di una riforma fiscale che punta a alleggerire la pressione fiscale su chi lavora. Sì, per essere precisi, il governo ridurrà, perché la riduzione del cuneo fiscale parte a luglio, sia quella che mette 20 euro in più sugli 80 euro che quella complessiva, per cui però insomma attendiamo. Per carità, possiamo essere d'accordo che non ci devono essere annunci che poi non si basano su spazi effettivi per ridurre le tasse, però insomma vedremo. Per quello che riguarda invece il viaggio che continuiamo a fare sugli effetti del coronavirus, se il Ministero dell'Economia e Finanze oggi ha detto che l'impatto vi sarà almeno per 2-3 mesi, la nostra Livia Zancaner continua a interrogare, diciamo così, e a registrare le reazioni dei vari settori, perché di nuovo torniamo sul settore del tessile e abbigliamento, perché che ha due problemi, che poi sono i problemi che hanno tutti i settori colpiti dal coronavirus. Uno è l'assenza, come spiegavamo anche ieri, di compratori, buyers, turisti cinesi in Italia, prima meta in Europa per quello che riguarda lo shopping, diciamo gli acquisti cinesi. L'altro è la difficoltà degli approvvigionamenti, vale anche, cioè dei prodotti semilavorati o lavorati che arrivano dalla Cina, vale anche per il settore moda. Allora, gli acquisti tax free in Italia sono per il 30% operati da cinesi, quindi una cifra altissima, un terzo di tutti gli acquisti tax free, che di solito sono, essendoci una soglia, se non ricordo male, di 125 euro, sono acquisti di una certa rilevanza. E quindi nel sistema moda si ha da un lato un calo dei consumi per l'assenza dei turisti cinesi, dall'altro un ritardo nelle spedizioni, come ha spiegato il presidente del sistema moda Italia, Marino Vago, che rappresenta un settore che vale 1,2 punti del PIL, e al microfono appunto la nostra Livia Zancaner. Quello che succede per noi quando ci sono situazioni come queste che vanno a incidere soprattutto sulla filiera di approvvigionamento è che c'è il rischio che vengano a mancare alcune componenti lungo la filiera. Il vantaggio che abbiamo solo in questo momento è che, essendo una filiera molto composita, c'è uno spazio, un cuscinetto, non siamo con delle forniture just in time, quindi fortunatamente se questi ritardi non superano un periodo troppo importante, ci sono una sorta di ammortizzatore che ci permette di garantire le produzioni. Certo che già in questo momento, per esempio sulla spedizione di alcuni container, di alcune materie prime, la fase concominante del Capodanno cinese e poi questi ritardi nelle spedizioni porta sicuramente a delle preoccupazioni. Io credo che ancora per un mese buono si possa resistere. Poi fortunatamente, tranne per cose molto specifiche, si possono trovare delle fonti alternative, con tutto quello che questo comporta. Quello che abbiamo notato è che chiaramente in questo periodo le vendite nei negozi sono crollati. Ci auguriamo che sia un fattore temporaneo. Su questo aspetto c'è proprio grande preoccupazione. Il governo sta pensando in questi giorni a delle misure a favore delle aziende. Allora, sì. Secondo lei, quali potrebbero essere questi interventi? Quello che potrebbe essere il supporto alla promozione dei nostri prodotti sui mercati che non sono toccati da questa situazione è sicuramente un aiuto, è una cosa che andrebbe fatta in ogni caso. Non dimentichiamo che il settore della moda paga da solo metà del disavanzo commerciale, cioè metà dell'attivo che facciamo viene fatto grazie al settore della moda. Sì, qualcuno mi descrive, ma con tutta l'economia che ci avete drenato, avete non so chi, con la Cina, cosa ce ne frega se non vengono a spendere da noi? Boh, noi siamo già alla fame. Le dico una cosa, in un linguaggio poco economico, a me sembra il ragionamento del marito cornuto che si taglia gli zebedei. Cioè, ho capito che c'è a parte il fatto che la Cina, come raccontiamo da anni, più che essere un elemento di delocalizzazione, come è stato magari 15 anni fa, è in questo momento un elemento, è un mercato di consumatori per molte imprese italiane, quindi non è la delocalizzazione di cui parlavamo 15 anni fa, è proprio un mercato di consumo. Ma come fa a dirmi che cosa ce ne frega del 30% di quelli che vengono a fare acquisti in Italia tax free, che riguardano soprattutto il mondo della moda, della cosmesi, dei profumi, ma non solo? Io non sarei così tranquillo come lei. Immagino che lei non abbia un parente che lavora in uno di questi negozi o in uno di questi ristoranti, che tra l'altro pagano le tasse in Italia, a differenza di quello che fanno le tanto mitologiche e mitizzate società online, i colossi online. Boh, io non capisco quale sia il problema, la sua goduria nel non avere i cinesi in Italia. Però detto questo, andiamo invece sugli scenari del mondo della meccanica, perché sempre Livia Zancaner ha raggiunto Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneto, e una delle aree in cui è fortissima la meccanica industriale. Stiamo a vedere, la situazione non è assolutamente chiara, stiamo ricevendo notizie allarmanti ma anche contrastanti dalla Cina. La nostra regione è molto coinvolta, perché noi parliamo di 1 miliardo di esportazioni e 3 miliardi di importazioni dal paese. Noi dobbiamo aspettare ancora qualche settimana, qualche periodo in più per vedere veramente come andranno le cose. Se ci fermassimo qui, sicuramente nel giro di qualche mese riusciremo anche a recuperare quello che abbiamo perso. Se si andasse oltre, veramente siamo di fronte a scenari che ad oggi è difficile prevedere. Nel caso dunque il problema non rientrasse in un mese, cosa potrebbe succedere? La cosa sarebbe molto, molto più preoccupante, perché avrebbe degli impatti molto importanti sulle importazioni e soprattutto sulle esportazioni. Vorrebbe dire ripensare anche a tutta quanta la catena logistica delle merci che arrivano dalla Cina. Sappiamo poi che anche la Cina è un paese molto dinamico che potrebbe riprendersi molto in fretta. Nessuno ha ancora pensato di scenari apocalittici. Aspettiamo a vedere come si evolverà la situazione. Niente, cioè, ancora no, niente del mio commento, alcuni WhatsApp di gente che dice: ma dove spendono i cinesi in Italia? Ma non so, ma dove abita lei? Perché io vedo negozi di shopping pieni di, e negozi di moda pieni di cinesi, non lo so, ma stiamo scherzando veramente? Poi lasci, vabbè, lei mi consiglia di fare giornalismo di cronaca e lascia stare l'economia, come se uno fosse più facile dell'altro. Lei non sa oggettivamente di cosa sta parlando, ma nel contenuto proprio di quello che scrive. Detto ciò, adesso andiamo sul traffico, poi non ce la farò a fare il tema del Brennero e del blocco ai tir inquinanti, lo faremo a questo punto lunedì. La scadenza comunque è in là, però l'allarme è stato lanciato oggi dal presidente e dal governatore dell'Alto Adige, con Pacer. Traffico 349-238-6666 per sms e WhatsApp. Vorrei invece parlare delle vicende ai ritali, del bluff. Io ho chiamato marketing, bluff, a cui ci ha spesso abituato anche il proprietario di Ryanair. Bluff totale, nessun interessamento di Ryanair per Air Italy, a mio avviso serviva solo per creare attenzione sulla conferenza stampa di oggi. Dopo il traffico. Focus Economia. Leggendo i giornali ho la chiara impressione che pensiate che io sia qui per annunciare che Ryanair è interessata ad acquisire Air Italy. Lasciatemi dire in maniera molto chiara che non siamo interessati per nulla. Non abbiamo alcuna intenzione di comprare Air Italy. Sarebbe inutile. Tuttavia, siamo qui per annunciare due aerei in più a Milano dal prossimo inverno e rotte in più da e per la Sardegna. La nostra intenzione è di crescere ulteriormente. Come sapete, scarseggiano gli aeromobili, ma se dovesse esserci disponibilità di nuovi aeromobili e la disponibilità da parte del governo di riconsiderare l'addizionale comunale, c'è la possibilità di crescere ancora. Oh, mi fa impazzire, perché lui è il commercial officer di Ryanair a Milano, David O'Brien. Dice, ma leggendo i giornali mi sembrava... l'avete detto voi ieri. Io adesso capisco le esigenze di marketing, di comunicazione, di ufficio stampa, di creare il caso. Avete diffuso la notizia ieri che c'era un interessamento per Ryan Italy e per i ritri di Ryanair. Ryan Italy era già la crasi di Ryanair. E oggi c'era la conferenza stampa, i giornalisti sono arrivati cercando di capire cosa... Ah, ma cosa volete dire... Non abbiamo mai detto una cosa del genere, ragazzi, avete fatto tutto quanto da soli. Ma al di là di Ryanair, che ha usato questo per promuovere le nuove rotte, i voli, quant'altro, io chiedo ad Andrea Giuricin, che è docente di economia dei trasporti all'Università Bicocca di Milano, autore di un libro Alitalia, la privatizzazione infinita. Buonasera Giuricin. Buonasera, grazie per l'invito. In questo caso non parliamo di Alitalia una volta tanto, ma di Air Italy. Lei ha capito alla fine perché... Come riporta il Sole 24 Ore oggi, c'è una compagnia che si chiama greca Aegean, che è diventata un campione nazionale, trasportando 15 milioni, arrivando a trasportare 15 milioni di passeggeri. Adesso ha ordinato 58 Airbus per 6 miliardi, e dall'altro invece abbiamo Air Italy, che pure collega tra l'altro a Olbia, quindi il turismo sardo anche di alto livello, che non sta in piedi e l'AGCAN non vuole ricapitalizzarle, quindi va in liquidazione, in bonis? Innanzitutto bisogna partire dai problemi di Air Italy e poi andiamo ad analizzare Aegean. Per quanto riguarda Air Italy, come ben sappiamo è una compagnia che perdeva 200 milioni, o ha perso 200 milioni di euro su un fatturato di circa 250 milioni di euro, quindi è anche chiaro il perché né Ryanair né altri se la vogliono comprare, piuttosto sono interessati giustamente alle rotte. Detto questo, la strategia di Air Italy degli ultimi due anni, ricordiamo che due anni fa è partita proprio questa nuova strategia di Air Italy, da quando è arrivato il socio di Qatar Airways, praticamente cosa è successo? Beh, hanno puntato sul lungo raggio senza avere una rete di vendita per il lungo raggio, quindi si sono scontrati con i grandi colossi internazionali senza averne le capacità e quindi non riempivano gli aerei, e sul corto raggio sono andati a scontrarsi con le compagnie low cost, che invece sono molto più forti, molto più aggressive e soprattutto hanno dei costi molto più bassi. Questo, tutto questo di fatto ha creato un sistema, comunque ha creato le condizioni per le quali Air Italy si è trovata veramente, veramente in una situazione molto complicata. E invece la vicenda Aegean, e giustamente alcuni ascoltatori mi fanno notare anche la TAP portoghese, non va male. Che cosa ci insegna? Se allora, ci può insegnare qualcosa. Allora, la TAP, bisogna anche dire che l'ultimo bilancio poi era ritornata in perdita, però è anche vero che in parte aveva recuperato dalle difficoltà degli anni precedenti, però non è, diciamo, sì, non ha i margini di altre compagnie, mentre Aegean è una delle compagnie che c'è margini superiori. Qual è la particolarità di Aegean? È andato in una nicchia di mercato, che è il mercato greco, e lì si è creato di fatto quasi un monopolio per quanto riguarda le rotte interne, sfruttando anche gli oneri di pubblico servizio, cioè quei contributi che possono dare le regioni o comunque le diverse isole della Grecia per cercare di sviluppare i voli interni alla Grecia. Detto anche questo, Aegean però riesce, o è riuscita nel corso degli anni come compagnia privata, a ridurre i costi in maniera molto importante, cioè ha dei costi che, pur essendo fra virgolette una compagnia tradizionale, cosiddetta compagnia tradizionale, ha dei costi simili a quelli di EasyJet, quindi è molto competitiva anche da un lato di costo. Ecco, tutto questo ha fatto sì che Aegean si è ritrovata la sua nicchia di mercato, è riuscita a ridurre i propri costi e di fatto è ormai forse una delle poche, se non l'unica, che ha dei buoni margini positivi, pur essendo una compagnia da sole relativamente piccola. Senta, Giudice, mi dica solo una cosa, ma secondo lei è possibile trovare un'alternativa, un compratore ai riteri? Cioè è possibile che quel modello di business funzioni, visto che appunto, ripeto, c'era la tratta su Olbia, la Milano-Olbia, la continuità territoriale, alcune cose che lei ha detto di Aegean in parte erano trasferibili anche a Air Italy, sì o no? Secondo me no, perché comunque su Air Italy c'era la competizione, ad esempio sulla continuità territoriale sappiamo bene anche di Alitalia, da quel punto di vista. E l'altro punto è che ormai è troppo tardi, anche per un'Alitalia è troppo tardi riuscire a creare questa posizione di forza. Perché? Perché già Alitalia non ha più quel monopolio, ad esempio, sul mercato interno, e il mercato interno italiano ha un'altra caratteristica, che è l'alta velocità, che è estremamente forte, estremamente competitiva, che ha tolto, diciamo, quei ricavi che potevano prima arrivare da questa da particolari rotte. Pensiamo alla famosa Milano-Roma, che era un po' una rotta di forza dell'Italia fino a prima dell'arrivo della concorrenza. Quindi e dell'alta è molto scettico che si possa, diciamo, rilanciare o far rinascere Air Italy. Grazie, perché lei è uno dei massimi esperti, diciamo, del trasporto aereo. Grazie anche Andrea Giuricin. C'è qualcuno che continua, per carità, continuano a scrivere, ma che ve ne frega della Cina, esportiamo la metà di quanto importiamo, qual è il problema del blocco dei flussi? A me mi sembra una roba da pazzi. I ristoranti cinesi pagano le tasse come gli altri, siete solo dei collaborazionisti. Ora è bellissima questa collaborazionista, con chi? Col governo cinese? Le faccio notare che il termine collaborazionista si usava per chi collaborava con i nazisti e con i fascisti, quindi stia attento ai termini che uso, almeno cerchi di approfondirli prima. Comunque a tutti gli altri, anche a lei, le auguro di una buona serata. Se lei se ne frega della Cina, sono contento, vado a parlare in giro, poi mi racconta cosa trova. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi e torna la poco invidiabile classifica.